Il serpente corallo di Stefano Elli, Marco Lo Conte e Mauro Meazza. Ma quanto sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Ma quanto sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Buona giornata, benvenuti al Serpente Corallo, benvenuti da Mauro Meazza, da Marco Lo Conte, da Stefano Elli. E allora, quest'oggi parliamo di qualcosa che potrebbe essere un serpente corallo, ma non è in sé un serpente corallo. Forse però prima bisogna ricordare che cos'è un serpente corallo, Marco. Allora, il serpente corallo è l'allegoria, la metafora, allora, se preferite, di quella cosa bellina, carina, che ci seduce, ma che dentro in realtà nasconde una fregatura. Oh, allora, in questo senso noi vi parliamo di truffe finanziarie, di gente che vi porta via i risparmi, di leggi incomprensibili. Quest'oggi vi parliamo di una cosa che di per sé è anche positiva. Tuttavia, potrebbe nascondere al suo interno, qua e là, qualche serpente corallo. Sei d'accordo, Stefano, con Assolutamente. Questa disamina? Ti piace disamina? Sì, mi manca però il complemento oggetto. Vabbè, non importa, passiamo oltre perché non, senza por tempo in mezzo vorrei introdurre, vorrei presentare a voi, ma soprattutto ai nostri ascoltatori, Francesca Barbieri. Benvenuta, Francesca. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, Francesca Barbieri è capitata con questo trio di persone così più o meno serie, diciamo semiserie, perché Francesca è, oltre ad essere una collega del Sole 24 Ore, un'esperta di questioni di lavoro e di politiche del lavoro, numeri sul lavoro, quindi un tema quanto mai serio, quanto mai importante. Ho detto bene, Francesca? Grazie, Mauro. Allora, Francesca, tu in realtà sei una dei massimi esperti italiani della cosiddetta garanzia giovani, che poi è lo spirito, quello dove andiamo a cercare oggi il serpente corallo. Più o meno Garanzia Giovani è un programma europeo, giusto? Sì, Garanzia Giovani è il più grande programma europeo messo a punto negli ultimi anni dall'Unione Europea, che ha stanziato più di 6 miliardi per tutti i paesi dell'Unione Europea con un tasso di disoccupazione giovanile a livelli drammatici. Quindi c'è dentro ovviamente anche l'Italia. Siamo entrati di diritto e ci siamo guadagnati più di 1,5 miliardi di fondi da spendere. Questo è bene. Certo, questo è molto positivo. Per realizzare delle misure per i giovani, ovviamente, per aumentare le opportunità di studio e di lavoro. L'Unione Europea parla di offerte qualitativamente valide di lavoro e di studio. Quindi ci hanno dato 1,5 miliardi. Ma scusate, non ho capito bene, posso interrompermi? Certo. Ma su 6 miliardi uno solo a noi? No, 1,5 prima di tutto. 1,5 solo a noi? 1,5, dico bene. Siamo messi male. Bisogna vedere come ci siamo classificati nelle eliminatorie. Ci sono stati periodi in cui la disoccupazione giovanile era al 41%. Adesso è un po' calata, vero? Adesso è un po' calata, sì, però è sempre alta. Allora, per non farti però spiegare tutto proprio dall'ABC, noi abbiamo preparato una scheda. La Garanzia Giovani, Youth Guarantee, è il piano europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile. Con questo obiettivo sono stati previsti dei finanziamenti per i paesi UE che hanno tassi di disoccupazione superiori al 25%. Per l'Italia il budget è di 1,5 miliardi di euro. I fondi vanno investiti in politiche attive di orientamento, istruzione e formazione e inserimento al lavoro, a sostegno dei giovani che non studiano né lavorano, i cosiddetti NEET, Not in Education, Employment or Training. L'Italia deve quindi garantire a questi giovani al di sotto dei 30 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o tirocinio entro 4 mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale. Il programma si rivolge a giovani tra i 25 e i 29 anni, residenti in Italia, cittadini comunitari o stranieri extra UE, regolarmente soggiornanti. Tra le misure del programma, la cui gestione sul territorio è affidata alle regioni, ci sono l'accoglienza e orientamento, la formazione, l'accompagnamento al lavoro, ma anche il servizio civile e il sostegno all'autoimprenditorialità. Nel giugno scorso il programma Garanzia Giovani aveva coinvolto circa 1 milione di giovani e, stando ai dati del Ministero del Lavoro, ad almeno 1 su 2 era stata proposta una misura specifica. Il sito del programma è www.garanziagiovani.gov.it. E allora abbiamo riepilogato Francesca Barbieri, che è qui con noi a spiegarci un po' Garanzia Giovani, com'è costituita Garanzia Giovani, quantomeno nelle sue linee principali. Lo ripeto per un'altra volta, Garanzia Giovani non è un serpente corallo, cioè non è di per sé una fregatura. Tuttavia, potrebbe annidarsi all'interno di Garanzia Giovani qualche serpente corallo. Perché, Francesca? Beh, intanto diciamo che Garanzia Giovani ha avuto un grande successo tra i NEET italiani, perché da quando i è partita... NEET, che sono coloro che non studiano e non lavorano. Esatto, coloro che non studiano e non lavorano fino a 29 anni di età. Okay, sono poi, stati... poi passano direttamente tra i fannulloni ed escono dalla categoria dei NEET. No, all'inizio la sticella era 24 anni, anzi, poi dopo è stata alzata per cercare di aiutare un maggior numero di persone. E, dunque, il programma è partito il 1 maggio del 2014 perché per... il 1 maggio? Festa del lavoro, festa del no? Lavoro. Ah, per celebrare il lieto evento. Perché è un giorno che tutti non fanno niente, quindi i NEET erano in tinta con il 1 maggio. Scusa Francesca, perdonalo. Quindi per partecipare bisogna iscriversi al sito del Ministero del Lavoro e la partecipazione c'è stata, si sono iscritti in più di 1 milione. Però poi bisogna andare a vedere come è andato il programma. Perché il programma consiste nel fatto che qualcosa bisogna proporre a questi giovani. Esatto. Non sono loro che trovano qualche cosa, ma le regioni, mi sembra di ricordare, devono farsi parte attiva e proporre qualcosa a questi NEET. Sì, sono in realtà i centri per l'impiego pubblici che appunto ricontattano i ragazzi che si sono iscritti. Nella situazione ideale entro 4 mesi, poi in realtà non è andata proprio così per tutti. Quindi i tempi sono stati un pochino più lunghi e vengono contattati, gli viene fatto un colloquio, viene tracciato il bilancio delle competenze, quindi cosa hanno fatto, gli studi, eccetera. E poi dovrebbe arrivare questa offerta qualitativamente valida. Che significa un'offerta di lavoro dipendente o anche altro? No, non è detto che sia un lavoro. Può essere anche un corso di formazione per aggiornare le competenze, ad esempio, per migliorare il curriculum, per renderlo più spendibile. E queste offerte arrivano o non arrivano prima di tutto, o ne arrivano solo in parte? Allora, arrivano, sì, certo, arrivano, però non si tratta sempre di lavoro dipendente. Un bilancio aggiornato lo ha fatto l'ANPAL, che è l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive, perché il programma Garanzia Giovani... Quindi punta... fonte istituzionale. No? Fonte istituzionale, un bilancio aggiornato a fine 2016... dal quale emerge che diciamo tra tutte le misure proposte ai giovani a spiccare è il tirocinio che ovviamente prevede un rimborso come prevede la legge italiana e ha riguardato il 68% dei ragazzi che hanno concluso il programma. Che però sono solo una parte, quelli che hanno concluso il programma, di tutti quelli che si sono iscritti, dico sì, bene? Sì, sì, sono diciamo una minima parte. Allora, se capisco bene, il programma che, perdonami, è tuttora aperto, giusto? Sì, sì, il programma è tuttora aperto. Ed è stato anche rifinanziato? Non è ancora stato deciso, dovrebbe essere rifinanziato da parte dell'Unione Europea. All'Italia dovrebbero arrivare altri 900 milioni. Tra fondi europei e fondi nazionali. Meglio che perdere l'ombrello, come si dice. E allora, di questi si sono iscritti in 1 milione, una parte hanno ricevuto, solo una parte di questo 1 milione ha ricevuto in realtà un'offerta formativa o di lavoro, solo una parte di questi che hanno ricevuto l'offerta formativa o di lavoro hanno finalmente trovato un tirocinio. Quindi qualcosa è stato fatto e invece il corallo dov'è? No, il corallo è che ci sono stati, come dire, degli intoppi, diciamo, ecco. Magari alcuni tirocini non sono stati pagati prontamente, i ragazzi hanno dovuto aspettare dei mesi e quindi, insomma, la puntualità non è la caratteristica principale di questo programma, diciamo. Non è una caratteristica forse neanche di tutta la burocrazia nostra. Eh sì. Qualcuno purtroppo ne ha approfittato. Qualcuno ha sentito odore di denaro e come i serpentini corallo, quelli più scatenati, secondo me, come gli squali, diciamocelo, ha fatto scattare. E c'è lo squalo corallo? Lo squalo corallo, beh sì, secondo me sì. Ma il serpente corallo è acquatico, vabbè, basta con queste domande inutili, anche perché siamo arrivati in conclusione della nostra prima parte. Adesso noi ci fermiamo per qualche istante, ma torniamo tra poco, non solo con Francesca, che ci parla sempre di lavoro e di giovani, ma anche con altri ospiti. Sorprese bellissime abbiamo in serbo, e allora restate collegati con il serpente corallo. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta il serpente corallo. Voi siete le migliori menti in circolazione e vivete ai margini della società. Siete due latinisti di fama internazionale, fate i benzinai di notte per un cingalese che vi paga a nero. La coltellata gli è andata bella precisa qua, si sono scannati per eredità, c'è stata un'aspra diatriba legale per la divisione. Che? No, hai detto un'aspra diatriba legale. E io sono stato chiaro, non assumo laureati. Sì, ma guardi, è un errore di gioventù del quale sono profondamente consapevole. E allora, questo forse qualcuno l'ha riconosciuto, era Smetto quando voglio, cioè storie di brillanti cervelli di ingegni italiani che, non trovando di meglio da fare, si mettevano a fare gli spacciatori di droghe, peraltro legali, sfruttando appunto tutte le loro competenze in campo finanziario, chimico, in materia di management e quant'altro. Siamo qui a parlare di lavoro e di giovani perché anche in questo settore, ohimè, può annidarsi qualche serpente corallo. Con noi c'è Francesca Barbieri. Francesca, abbiamo parlato di garanzia giovani, per dire, non è un serpente corallo, ma qua e là attenzione perché potrebbe esserci qualche delusione, ecco, se vogliamo usare un termine elegante. Ma poi ci sono quelli che invece dicono: guardate, niente garanzia giovani, io vi saluto e me ne vado. E sono sempre di più, vero? Sì, purtroppo sì, sono sempre di più gli italiani che decidono di andare all'estero. E sono 100.000 all'anno, anzi più di 100.000 negli ultimi anni, e sono soprattutto giovani con titoli di studi elevati. Quindi noi li abbiamo formati, qualcun altro ce li distrugge. No, più che altro li utilizzerà, più che distruggerceli, cioè se li sottrae, giusto? Perché sì. Poi queste persone trovano anche migliori opportunità all'estero. Per esempio, io ho intervistato una ricercatrice italiana laureata a Padova col massimo dei voti, che adesso fa il dottorato in Nuova Zelanda e si trova benissimo, guadagna abbastanza bene, molto di più rispetto all'Italia, e lavora in autonomia e quindi, come dire, il suo nome compare sulle pubblicazioni e non ci pensa proprio a tornare in Italia. Ecco, questa è una cosa che ci fa dispiacere. Ci fa veramente male. Ci dà fastidio. No, qui spesso scherziamo, però ricordiamo sempre che il tema lavoro è un tema molto serio, perché riempie la vita di tutti noi il lavoro, l'attesa, l'aspettativa del lavoro e poi la pensione, ma io non voglio portarmi... Tu sempre guardi alla pensione, questa è gente che manco ha cominciato a lavorare. Insomma, comunque, bisogna fare tutto il percorso, no? È attuario dentro, Marco. Sono attuario, è attuario dentro, è vero. L'attuario, ma voi sapete cos'è un attuario? Un giorno vi porterò qui un'attuaria, addirittura vi farò dire delle cose che voi neanche vi immaginate. Va bene, fermiamoci allora un attimo, perché cara Francesca, io ti voglio dire una cosa. Noi tre, che ci vedi qui, tra i giornalisti del Sole 24 Ore, Marco Loconte, Stefano Elli, io stesso, in realtà abbiamo deciso di fondare questo gruppo musicale che si chiama Chapter 11. Andiamo in giro, ci esibiamo per lo più per beneficenza, devo dire, e abbiamo proprio una canzone che parla di queste difficoltà di trovare lavoro. Allora te ne faccio sentire così un pezzettino dal nostro CD che si chiama Ma ce l'avete il CD? Ora ascoltiamo un brano di Chiusi. Mamma dice che si è stufata di cucinarmi la peperonata, trovarmi a letto a luna passata, pagar la retta all'università. Sto fuori corso da 16 anni, lei è un po' stanca di lavarmi i panni, ma si vergogna di dirlo ai nonni che a 40 anni sto ancora qua. E un giorno arriva questo ministro a riformare la previdenza, a suggerire che forse è il caso di fare un minimo di esperienza, perché il lavoro non lo si trova e la fortuna c'ha gli occhi chiusi. Chiusi, chiusi o chiusi, chiusi? Chiusi, chiusi o chiusi, chiusi, chiusi. E allora allora, questa è Chiusi dei Chapter 11, una canzone scritta e interpretata da noi stessi. Cara Francesca, ti vedo abbastanza perplessa e ne hai ben donde, ma non è l'unica sorpresa che voglio farti, perché abbiamo portato qui proprio uno di questi brillanti giovani, di questi cervelli in fuga, come qualche volta vengono chiamati. È con noi Andrea Carlini. Buongiorno, buongiorno, grazie dell'invito. Caro Andrea, allora lei, tu possiamo darci del tu, sì, tu sei molto giovane anche se già hai questa vicenda lavorativa importante, rilevante. Ci vuoi parlare di come, sull'esempio di quanto ci diceva prima Francesca, hai trovato fortuna, miglior fortuna all'estero anziché in Italia? Sì, io ecco, ho 36 anni, e sono un ingegnere laureato in Italia, anch'io a pieni volti, e attualmente mi occupo di dirigere un centro di ricerca internazionale in Giappone, alla Toyota. Ah, ma è fantastico. Però, sì. Noi ci occupiamo, diciamo, di ricerca nel campo delle batterie elettriche per le auto elettriche del futuro. Ecco, quindi, cavolo. Sostanzialmente tu sei al vertice di questo istituto di ricerca, di una delle più importanti case automobilistiche del mondo. Esatto. Un italiano che guida, così giovane, peraltro, che guida. Francesca, ti vedo impressionata da questo fatto. Caspita, complimenti. No, grazie. Beh, io tra l'altro, ecco, se ascoltavo i vostri discorsi, devo dire che io dopo la laurea avevo già in realtà iniziato a lavorare nel settore delle automobili qui in Italia. Ah, e di cosa ti occupavi? Io mi occupavo di, diciamo, idrorivalorizzazione della componente estetico-sanitaria delle automobili. Che? Cioè? Autolavaggio a lorenteggio. Ah, che era comunque un lavoro, ecco, diciamo, di responsabilità. Ecco, poi, ecco dove ti ho visto, sì. Perché io abito lì vicino, vado spesso. Da infatti, poi c'era anche molta concorrenza straniera ai semafori, e sì, quindi sì. Poi ovviamente le prospettive però erano un po'. Sì, questo aspetto limitate. Qua adesso devo dire mi spiazza un momento. Possiamo tornare invece, sì, al tuo attuale impiego in Giappone, sì, con Giappone, questo centro ricerca importante. Centro di ricerca, io a Tokyo, mi trovo a Tokyo, e comunque il Giappone in generale è proprio un grande esempio di paese all'avanguardia, che vive nel futuro, un paese insomma moderno, e pieno di opportunità e possiamo definirlo proprio, cioè, senza dubbio è un grande esempio di posto di merda il Giappone. No, Andrea, no. No, dai, non far così. Ma perché? Ma c'è pieno di terremoti in Giappone. Sì, però sono anche sismi. Sì, ma io ho paura. Sono organizzatissimi loro, sì, no? Sono sembra molto di camminare sopra un cellulare che vibra. Capisco che può esserci un po' di straniamento ad allontanarsi dalla propria patria, sì. Però insomma il Giappone ti ha dato anche delle opportunità magnifiche, sì, no? Sì, no, poi ecco anche, adesso scusate, ho avuto un attimo, perché questo problema dei terremoti un pochino mi ha segnato. Ti però angoscia, devo certo. Dire che loro sono molto preparati in questo, sono all'avanguardia, ci sono questi edifici antisismici, quindi quando viene una scossa si muovono gli oggetti dentro alla casa, ma l'edificio rimane assolutamente splendido. In piedi. Beh, certo, il sapere giapponese, sì, su questo. Insomma, a me è capitato recentemente di avvertire una forte scossa, ero in casa in bagno e mi sono ritrovato a farla nel salotto del vicino. Questo è imbarazzante, sì, effettivamente, sì, lo ammettiamo. È abbastanza imbarazzante, però ecco, la volta prima era successo il contrario, quindi cioè, poi alla fine vicino era nel mio salotto, quindi alla fine si fa anche amicizia. Sempre che espletava. Sì. Comunque no, ecco, in generale ora il Giappone, Tokyo è una città meravigliosa, è molto grande, ma anche molto ben organizzata, devo dire, anche per chi ci lavora, ci sono 16 linee della metropolitana che ti portano ovunque, no? Il problema è che io non capisco dove vado a finire. Ma perché? No, non fare così, Andrea. Ma c'è, ci sono i cartelli in inglese anche. Ma è tutto in giapponese, io non ci capisco niente, per me è una roulette russa, è tutto che si incrociano le linee. Ma come fai ad andare al lavoro allora la mattina? E io prendo una metro, poi tipo roulette russa, dove arrivo. Deve essere abbastanza preoccupante questa cosa. Vabbè, però sul lavoro hai tante soddisfazioni e poi sì, c'è l'ospitalità giapponese che è famosa, beh, in tutto il mondo. Ecco, loro in questo sono eccezionali. Loro mi hanno proprio, i miei colleghi hanno fatto subito amicizia con me, mi portano a conoscere la cultura giapponese, la cucina giapponese che famosa, per certo, noi certo. Magari un po' invece, perché loro poi mangiano cioè fanno le io non ho ancora capito cos'è che mangiano. Beh, mangiano il sushi, no? Non si mangia il sushi. Perché loro usano molto il fritto, sì. Fanno l'alga fritta, il gelato fritto, il tofu fritto e il pesce crudo. No, ecco. È vero. Se uno ci pensa, guarda, noi invece siamo abituati alla fritturina. Che uno in tutto il Giappone che friga un'acciuga. No, non c'è. No, non c'è, certo, va bene. E questo ti manca, capiamo che ti manca, capiamo il tuo desiderio. Del cibo. Comunque, italiano. Io vi ho portato il mio curriculum, se magari qualcuno avesse bisogno anche come dog sitter, cat sitter, babysitter, magari per l'estate, così. Per restare qui. Se qualcuno ha bisogno, sì, di un filippino italiano, ci sono io. Filippino italiano compassato in Giappone. Se potete scrivere a serpentecorallo@radio24.it, io torno volentieri. Bene, noi faremo anche allora da ufficio di collocamento per l'ingegner Carlini, ma in realtà ovviamente abbiamo scherzato, perché Andrea Carlini è un attore, un comico. Francesca, ammettilo, ci avevi creduto? Sì, all'inizio sì. All'inizio ci avevi creduto che ti avessimo proprio portato un espatriato, un ingegnere brillante, laureato italiano che aveva fatto fortuna all'estero. Invece no, ti abbiamo fatto questo scherzo. Questo scherzo perché serviva anche un po' a introdurre Andrea Carlini. Andrea Carlini che è insegnante anche di teatro, oltre che attore comico. Probabilmente lo conoscete già perché lo avrete visto a Zelig, lo avete visto a Colorado, negli spettacoli teatrali, ad esempio con Leonardo Manera. E allora, cara Francesca, grazie di essere stata con noi. Abbiamo anche voluto così un pochino giocare su un tema, per carità, serissimo, di cui tu ti occupi sempre sul Sole 24 Ore, specialmente sull'edizione lunedì. Grazie Francesca. Grazie a voi, è stato un piacere. E noi ci risentiamo tra pochissimo, perché ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi torniamo, tratterremo con noi Andrea Carlini, ci facciamo raccontare qualcosa del suo lavoro e anche magari di questo aspetto, di questo lavoro non tra i più stabili, forse, vero Andrea? Assolutamente no. Allora, a tra poco con il Serpente Corallo. Il Serpente Corallo. Ma quando sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Ma quando sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Bentornati, questo è sempre il Serpente Corallo su Radio 24. Mauro Meazza, Marco Loconte e Stefanoelli sono con voi, tre giornalisti del Sole 24 Ore, per insegnarvi a riconoscere, darvi qualche dritta per evitare le fregature. Quest'oggi stiamo parlando di lavoro e allora abbiamo con noi, come avete sentito, Andrea Carlini, attore comico, nonché insegnante anche di teatro. E allora forse è importante capire come si può lavorare in un ambiente non proprio stabile ai massimi livelli come può essere quello del teatro, e trovare il modo anche di, come dire, sbarcare il lunario. È troppo, è eccessivo, Andrea? No, è proprio il termine giusto. Insomma, bisogna avere un bel coraggio per intraprendere questa strada, però ovviamente uno lo fa per passione prima di tutto, quindi... È un'esigenza tante volte, no? Quando si parla di precariato, no? Si parla dell'assenza di stabilità nel mondo del lavoro, poi uno pensa a cosa fa l'attore, che la sera, quindi anche in orari non proprio da lavoro classico, si trova di fronte al pubblico, basta magari anche un errore, cioè rischia tantissimo rispetto a tantissimi altri lavori l'attore, no? Perché si espone al giudizio del pubblico minuto per minuto, insomma. Ci vuole, tu dicevi, passione, anche tanto coraggio, no? Sì, è un po' come fare gli equilibristi, no? Sì. Andare sul palcoscenico, però... Ma scusate, allora perché la chiamano compagnia stabile? perché in effetti... Che almeno nel nome ci esatto, sia. Esatto, almeno il nome... Solo nome. Ma tu come hai cominciato, Andrea, a fare questo mestiere? Io ho iniziato a scuola, al liceo, nel classico gruppo pomeridiano di teatro, grazie alla mia insegnante di lettere dell'epoca, e da lì poi è stato tutto un susseguirsi di cose, quindi prima teatro amatoriale, teatro dialettale, perché io vengo da Genova, c'è una grande tradizione di teatro dialettale. Gilberto Govi. Esatto, e d'estate si va in giro con le compagnie dialettali e quella è stata una palestra fondamentale. Quindi poi, tu, Creusa de Ma, la sai tutto, cioè le capisci tutto. Capisco tutto, perché sì. Perché noi piace molto, l'ascoltiamo da anni, è bellissimo. Però non il è bel che disco che sia mai uscito in Italia. In assoluto. Sì, in sì. Assoluto. No, io infatti ho la fortuna di parlare il dialetto genovese e all'epoca comunque, cioè adesso ancora di più, ma trovare giovani che vogliono recitare e che sanno il genovese non è facile, quindi è tra l'altro è una lingua proprio molto particolare, che ha delle assonanze, ricordi di linguistica di qualche decennio fa, contaminazioni lontanissime, per cui anche in Inghilterra dicono Bailina anche sì, esatto. È arrivata fin lì, no, è arrivato fin lì. No, però adesso non buttiamola così subito col bail-in, che invece è il salvataggio interno delle banche, lasciamo stare, perché so dove ho capito dove vuoi arrivare, Stefano, e ne sono terrorizzato. Invece volevo chiedere ad Andrea una cosa. Il tipo di contratti che un attore può avere ovviamente non sono mai di quelli di tempo indeterminato, ma sono sempre ingaggi, giusto? Sì, esatto. Quindi ci sarà anche una difficoltà di accesso al credito, mi immagino. Cioè se tu, un attore chiede un mutuo, non dico il tuo mutuo che per carità, ti auguriamo sempre di ottenere alle migliori condizioni. Immagino che faccia fatica per questo. Fa molta fatica. Noi siamo in generale, parlo dei comici, più che altro dei liberi professionisti, delle partite IVA, quindi facciamo grossa fatica ad accedere al credito. Tant'è vero che tanti di noi cercano di mantenere chi ce l'ha avuto, un posto di lavoro in ufficio, che almeno ti dia un po' di sicurezza. Almeno ti dia un minimo di sicurezza. Insomma. Ti faccio una domanda che secondo me ti avrebbe fatto tra un attimo Marco. Ecco. La pensione. Stai mettendo da parte qualcosa? Guarda che Marco si arrabbia tantissimo. E dove? Nell'Empals? Per forza. Per forza, sì. No, la pensione è una cosa su cui noi fondamentalmente facciamo delle battute, ma non abbiamo ben presente che cosa vuol dire. Cioè vi esercitate nel vostro lavoro di comici sulle pensioni, esatto. Viene benissimo. Esatto. Nasce tutto da lì. E nasce da lì, poi cioè, basta. Non... Noi diciamo spesso che la pensione, lo diciamo a Marco che se ne occupa, che a noi suona un po' come la fantascienza. Cioè diciamo infatti a Marco che lui è un autore di fantascienza, un Asimov dei tempi moderni. Esattamente. Guardiamo molto lontano, ma infatti questa è un po' la dinamica, partire come facevamo l'accenno prima, l'attuario dentro, partire da molto lontano per arrivare molto lontano, ma che fatica, mamma mia, tremenda. Ma anche perché Marco tu ci hai spiegato che ad esempio più tardi metti da parte per avere una rendita integrativa e peggio ti senti, perché poi per prendere 100 euro com'è quel giochino, per prendere 100 euro a 50 per quando mi ritirerò per prendere 100 euro a 20 anni, beh insomma tu a 20 anni inizi a mettere da parte 20 euro, stai bello tranquillo, e se, quando ti ritirerai, quando, se ti ritirerai, porti a casa 100 euro. Se vuoi quegli stessi 100 euro ma li vuoi a 40 anni, beh devi metterne 60, 55, 60 di euro. La cosa è molto divertente perché poi se rimandi la decisione di mettere da parte i soldi fino a 48 anni, ebbene per avere 100 euro devi mettere da parte al mese 100 euro, uguale, no? Okay. Se non di più. Se decidi a 53 anni ce ne vogliono 135 di euro al mese per avere 100 euro. Fa molto ridere. A volte. Se non sei quello che deve mettere i 135 euro, fa anche ridere. Fa molto ridere, certo. Sì, e invece se sei quello che deve mettere i 135 euro, secondo me fa molto meno ridere. O meno. Va bene. No, io avrei un'altra curiosità. Dicevi che insegni, giusto? Sì. Ecco, se uno volesse imparare da te, come fa per raggiungerti? Allora, io sto facendo dei corsi insieme ad altri comici all'Accademia del Comico, che è una scuola di comicità che ha aperto da poco i corsi anche a Genova, perché io abito lì, ma c'è anche a Milano, quindi la trovate sicuramente tutte le informazioni sul sito internet, okay. Che è credo proprio accademiadelcomico.it. Okay. Noi cerchiamo di così avviare le persone a, non dico alla carriera del comico, ma ad apprezzare la comicità e ad essere anche un po' più spiritosi nella vita, che secondo me è una qualità insomma fondamentale. E allora grazie Andrea, ma resta qui con noi perché adesso ti dimostriamo come si può essere, non dico spiritosi, ma insomma provare a esserlo, poi ci darai un giudizio con una delle cose che invece di solito fanno piangere, cioè le tasse. perché vorrei adesso, con il vostro permesso, ma anche senza, lanciare la mia personale rubrica di cui sono molto fiero, che si chiama C'è imposta per te. C'è imposta per te. Sono una studentessa universitaria fuori sede, ma faccio ancora parte del nucleo familiare dei genitori. Ho svolto il servizio civile nazionale da settembre 2015 a settembre 2016. A causa del rimborso spese percepito con il servizio civile, i miei genitori non possono detrarre l'affitto e le tasse universitarie, ed è stato detto loro che non posso farlo nemmeno io. È effettivamente così? Oppure io posso presentare una mia denuncia dei redditi in cui dichiarare il compenso percepito, ma anche le spese che ho sostenuto in quell'anno? È una domandona questa, sapete? No, sai Andrea, veramente questa è una domandona, perché qui tocchiamo uno dei misteri più belli, più dolorosi, più affascinanti del fisco: l'incapienza. L'incapienza è come un malanno, è come prendersi un malanno. Allora, qual è la risposta a questa studentessa? Peraltro il quesito è assolutamente vero, è stato pubblicato sul Sole 24 Ore, sull'Esperto Risponde. La risposta purtroppo è: cara signora o signorina, lei deve rassegnarsi, purtroppo è andata così. Perché? Perché la signorina non può essere, o signora, a carico, avendo superato il sontuoso limite di 2.840,51 euro in un anno. In un anno? In un anno, cioè si fanno 300 e spicci euro. Sai perché? Perché una volta era 5 milioni e mezzo quando c'era la lira. Era già vecchio quando c'era la lira. Figurati adesso che siamo passati agli euro, però è rimasto lì. 2.800, se guadagni 2.841 euro, mi spiace, non sei più a carico. Quindi è tutto alle spalle, sulle spalle tue. Però ha fatto il servizio civile, quindi noi le abbiamo dato una cifra sontuosa, più o meno 5.200 euro. Mm. Quindi è una signorina che, caspita, ambiente. Sì, in un anno, in un anno le abbiamo dato 5.200 euro. Ambiente. Quindi lei ci ha fatto questo piacere, che ha fatto il servizio civile, noi l'abbiamo sontuosamente remunerata. E però lei dice, sì, però io adesso ci avrei avuto anche delle spese, perché mi sono trasferita, il vitto, l'alloggio, metti un medico, un'aspirina, una volta l'hai comprata, no? Ti capita. Allora dai il codice fiscale, lo scontrino parlante, bla bla bla. Lo scontrino parlante, questa era una battuta, non vi ha fatto ridere, non capisco perché. Allora, che succede? Che questa signorina è tragicamente, dolorosamente incapiente. Cioè non ha abbastanza IRPEF da mettere lì, da sfruttare per avere gli sconti, la detrazione. E l'incapienza è così, è un malanno così. Allora, lei ci ha fatto sto piacere, ha fatto il servizio civile, abbiamo dato due ghelli, ha sostenuto le spese e la risposta è peggio per lei. Doveva guadagnare di più. Doveva guadagnare di più e allora avrebbe avuto più tasse da pagare, più IRPEF da pagare, sarebbe diventata capiente. Invece incapiente, ma io direi incappiente, nel senso che ha la testa dentro il cappio, no, fiscale, che non gli consente. Guarda, vi voglio aggiungere ancora una cosa. Dovete sapere che, ad esempio, uno fa un Erasmus, così va all'estero, ormai ne abbiamo parlato oggi, no? Cavolo. Gente che va all'estero e magari prende all'incirca sui 3.000 euro. Ora, all'anno, se mi avete... All'anno per all'anno, carità, all'anno. Se mi avete seguito, il limite è 2.840, se superi il 2.840 non sei più a carico, quindi con l'Erasmus non sei più a carico. C'hai delle spese? Vuoi portarle in detrazione IRPEF, sfruttare gli sconti del fisco? Per esempio? Ma se non hai altri redditi, caro mio, sarai incapiente. E questo è il mistero, caro Andrea. Non so se sei rimasto turbato anche tu dall'incapienza. Sono un po' turbato e devo dire che mi state dando degli spunti per fare i pezzi comici sulla realtà, che non sono per niente male. Guarda, l'incapienza ha questo di bello, che è veramente un malanno. Io ci scherzo sopra, ma sarebbe anche ora, la butto lì così, voglio fare il tribuno, sarebbe anche ora che qualcuno si ricordasse, nel tanto parlare e chiacchierare di progetti di riforma, che magari sto limite a 2.840 euro annui è forse un po' bassino, cioè stavamo ancora ai 5 milioni e 500 mila. Un po' anacronistico come, Non so cosa vuol dire, però lo sottoscrivo perché mi sembra che suoni molto bene. Obsoleto quasi. Obsoleto, anche obsoleto, mi piace molto. Aspetta che me le scrivo tutte e due. Me le scrivo intanto che, se siamo pronti, ma mi pare di sì, ascoltiamo il traffico. E allora salutiamo Andrea Carlini che è stato questa mattina con noi. Grazie Andrea della tua grazie simpatia all'ospitale e grazie di essere stato qua. Grazie, grazie Stefano, che te ne vai anche tu? No, no, io ringraziavo Andrea perché mi ha fatto fare un sacco di risate. Ah, ecco perché. No, infatti sentivo che ringraziavi. E allora, grazie Marco. Ma beh, anch'io rimarrei però, se mi è concesso. Ah, vado solo via io, se va bene così. No, guarda, bene, portati allora via anche Mauro. Va dai. Bene, dai. Sì, forse è meglio. Mandiamo per favore il traffico. Lo dico io. Vai, vai, tocca a te. Traffico! Il serpente corallo. Ma quando sei bello serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Ma quando sei bello serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Bentornati e benvenuti all'ultima parte del Serpente Corallo, la trasmissione che vi aiuta a riconoscere le fregature, i serpenti corallo. Siamo all'ultima parte, allora ne approfitto per ricordare che questa trasmissione ha anche una casella di posta elettronica, come si conviene, serpentecorallo@radio24.it. E a proposito della nostra casella di posta elettronica, mi è gradito oggi farvi ascoltare un omaggio musicale, addirittura, che un ascoltatore, Felice Pautasso, che ringraziamo e salutiamo, ci ha inviato proprio una canzoncina dedicata al serpente corallo. Ascoltiamola. A Radio 24, finalmente è giunto di soppiatto un bel serpente. L'hanno portato egli con Loconte, ma con Mauro Meazza, che è la fonte di una notizia brutta finanziaria che ne gettò parecchi a gambe all'aria. Ciao Radio 24, ciao! Grazie a Felice Pautasso, grazie per la sua creatività musicale, davvero lo contatteremo magari anche come Chapter 11, chi lo sa. Marco, abbiamo parlato poco di risparmio quest'oggi, è e vero, molto di lavoro. È vero, beh, insomma, ogni tanto cambiamo, sono due temi molto cari a noi, agli ascoltatori, perché fanno parte, dicevo prima, della nostra vita, no? Il denaro ci serve per vivere, ma il denaro lo teniamo quando riusciamo. A lavorando. Lavorando teniamo del denaro. Ecco, perché non abbiamo preferito non presentare un caso di una grande truffa, di una grande malversazione in particolare, ma invece di concentrarci in questa ultima parte un po' su alcuni meccanismi, alcune dinamiche ricorrenti, dico bene? Ma sì, perché guarda, io anche in questa puntata ringraziami, inizia a ringraziarmi. Ti ringrazio, grazie Marco di essere con noi, benvenuto Marco Loconte. No, ringraziami perché anche in questa puntata sono riuscito a portare un contributo veramente d'eccezione. No. Sì, perché abbiamo sentito prima Andrea Carlini che ha spiegato, prima l'abbiamo sentito nella versione di attore comico, poi ci ha raccontato delle sue attività di insegnante anche di attore di comici, allora io in questa occasione, parlando di truffe, vi porto, sì, ho intervistato chi? Il formatore dei truffatori. Guarda, io ho paura di sapere chi è, di conoscerlo, di averne già sentito parlare, magari proprio al Serpente Corallo. Ma allora, lui è uno dei personaggi che stanno dietro alle truffe, quello che forma, è il formatore, il trainer, il counselor. Vabbè, lascia stare, è quello che insegna a truffare, quindi chi meglio di lui ci può spiegare i reconditi meccanismi con cui i truffatori ci mettono le mani in tasca, no, sostanzialmente. No, ma io mi rassegno a questo, sì, punto, ho solo paura di sapere chi è questo formatore che è tu chi? Hai intervistato. Chi è chi? Ah, quello che ho intervistato? Sì, quello, sì. Io lo so già chi è, guarda. Chi è? Comincia per P il nome, sì, e B il cognome. Cioè Pipitone? Pipitone? Broccoli, eccolo qua. Maestro di, quindi a questo punto, insegnante di finanza oscura, mi verrebbe da dire, un po' alla Harry Potter. Cintura nera di truffa. Cintura nera di truffa, va bene. Allora sentiamo questa cosa di Pipitone Broccoli, che però tutte le volte mi provvisto Pipitone. Cioè è possibile poi che Pipitone Broccoli poi sia dietro a tutte le malversazioni, tutte le, guarda, porcherie, c'è Pipitone poi Broccoli. Poi ti spiego perché. Sentiamo l'intervista. Va bene, sentiamo l'intervista. Buongiorno. Buongiorno. Lei è il formatore dei truffatori. Libero docente all'Università del Liechtenstein. Università del Liechtenstein. Libero docente all'Università del Liechtenstein. Libero a piede libero in quel senso? Finché non beccano. Finché non la beccano. Lei cosa fa? Lei insegna alle persone come si truffa, giusto? Sì, insegno tante cose, targetizzazione, individuazione del soggetto debole, sua, diciamo, tergiversare per poter riuscire a fare, insomma, a farsi dare soldi. Ecco, ma come individua il soggetto più debole? Insomma, come dire, l'elemento debole del gruppo, come lo fa a identificare? Beh, dipende dal lavoro che fa, se è pensionato, se ha un TFR liquidato da poco, oppure un imprenditore a caccia di alternative sul risparmio, magari c'è qualche soldino in nero da parte, è vero che non sa bene che cosa farci, che quelle sono le cose che ci piacciono di più, a noi, certo, vero? Già la vedo che è particolarmente, con il denaro in nero le si eccita, già lo vedo un pochettino, ma pensionato si fa poco il pensionato. Perché c'ha pochi soldi? Certo. O perché, esatto. Molto, perché ha un po' più di esperienza. Cioè, neopensionato, quello va bene perché c'ha il TFR che lo ritira. E allora al momento è più, cioè, più targetizzato, cioè, c'ha più possibilità di darti. E poi? Dopo il soggetto più bello è l'artigiano, quello che ti dà i soldi neri, che tu dici. Diciamolo, quegli artigiani, non tutti gli artigiani si fanno pagare in nero, quegli artigiani o quegli altri italiani, quelle persone che si fanno pagare in nero, che trattano denaro in nero, sono i soggetti più esposti. Quelli sono meravigliosi. Vulnerabili. Quelli sono, ma bravi sono. Ma allora, quindi, se siete in queste categorie... Stia calmo un attimo, perché intanto chi si sente citato in queste categorie faccia attenzione, perché chiaramente il nostro è un... Ma loro ci danno i soldi. In che senso? Loro ce li danno. Ve li danno. Noi ce li chiediamo e loro ce li danno. Ma sono consci dei rischi che corrono? Ma io non lo so, io prendo i soldi e li conto. Eh beh, questo io lo posso capire. Col però... fruscio, mi piace il fruscio del cash. Il cash. Il fruscio del cash è meraviglioso. Cash. Senta, ma no, ci dica un'altra cosa importante, perché abbiamo definito i profili dei vulnerabili, delle persone vulnerabili, dei truffati, ma chi sono i potenziali truffatori che lei addestra a questa arte, beh, insomma, riprovevole, posso dirlo, perché insomma... È riprovevole. C'è sempre stato, da Pinocchio in avanti. Da Pinocchio in avanti, dal gatto alla volpe. Ecco la roba lì. Un serpente corallo, secondo me, lei. Io adesso l'ho capito. Adesso ci siamo addestrati con la cybercrime. Un cybercrime. Cybercrime. Si dice crime in inglese. Vabbè, fa niente. Lo so. E cosa fate di cybercrime? C'è la X-Factor. Cioè? X-Factor. Cioè bisogna avere un fattore X, cioè un certo estro, diciamo così. Sì, basta che tu metti una X all'interno del nome, sì. Tipo Forex o Fix o Fixing o Forex, quella roba lì, e dopo la gente viene lì e ti fa un sacco di omaggi, veramente. Cioè ti dà i soldi. Sì, soldi telematici, poi diventano soldi cash. Cioè i potenziali truffati, quando vedono una sigla con la X... Perdono un po' la Trebisonda la nuova frontiera della truffa. Insomma, per truffare le persone bisogna mettere la X da qualche parte. Sì, nel sito soprattutto, bello. Nel sito, beh certo, capisco. Poi dà l'idea di esotico, di lontano, Caraibi, posti lontani. Però lei ha parlato di Liechtenstein, che è un piccolo paese. Principato. È un piccolo principato di quello che vicino Andorra. No, non proprio vicino Andorra, ma allora facciamo la nostra informazione di servizio, perché abbiamo capito, non vogliamo pubblicizzare più di tanto, diciamo, come diventare truffatori. Noi abbiamo lo scopo di spiegare alla gente di come non essere truffati, come non essere vulnerabili rispetto a questa... Allora cosa vuoi da me? Discutibile pratica, ma lei come si chiama? Abbia pazienza. Ce l'ho detto all'inizio. Quindi? Pipitone Broccoli. Ma siamo sicuri? Certo. Non è un nome di facciata, un paravento. Quale paravento? È un alias. Ma io questo Pipitone Broccoli in realtà poi dice delle cose interessanti. Eh sì, no? Però hai capito che è un alias. C'è un Pipitone Broccoli dietro. Diciamo che ovunque può annidarsi un Pipitone Broccoli. Stefano, ma tu che di questi Pipitone Broccoli mi sembra ne conosca più di uno e ne abbia scritto anche su Plus, sul Sole 24 Ore. Sì, ma decisamente. Allora, i soggetti vulnerabili. Pipitone Broccoli diceva che bisogna stare attenti, neopensionati col TFR fresco. Eh certo, perché questi sono effettivamente molto vulnerabili da truffatori di ogni risma, ma soprattutto noi non riusciamo ancora a capire, nonostante lo diciamo, lo scriviamo, scriviamo decaloghi, scriviamo moniti, questi qui, questi risparmiatori strampalati che continuano a dare denaro cash a questi consulenti, sedicenti consulenti, procacciatori. Questa è una pratica che bisogna sempre evitare, quindi il denaro proprio, il denaro contante consegnato. Contante non va consegnato mai, mai, mai, per nessun motivo. Poi andate a provare di averlo effettivamente dato al promotore, al consulente, al procacciatore. Certo. Provatelo se siete capaci. Ecco, allora già questo è un primo consiglio. Poi naturalmente Stefano, tu ci segnalavi anche ad esempio il caso delle persone che rimangono magari vedove, vedovi, quindi hanno anche a disposizione una lì c'è l'approfittarsi anche della debolezza psicologica dei soggetti particolari. Sono fasi in cui si è più vulnerabili, però Marco, mi pare che tu ce l'abbia detto in altre puntate anche, nessuno si deve ritenere al sicuro, non è una questione di istruzione, non è una questione di preparazione, ci sono delle meccanismi mentali, tu ne parli nel tuo Risparmiatore Maleducato. Sì, il libro. Esatto. No, beh, è vero che se uno è avvertito, è un po' più preparato, colto, insomma, se ha cercato di studiare, di approfondire, ha eretto un po' di barriere, no, rispetto a questo tipo di rischio. Però è nostra natura quella di essere avversi alle perdite, per esempio, o quello di rischiare di emulare il comportamento degli altri. Facendo così, spesso, insomma, non sempre si fa. Cos'è l'effetto gregge questo? L'effetto gregge, l'effetto gregge, ne riparliamo. No, l'effetto secondo gregge. Me, sai cos'è? Che sì, di fronte a queste cose noi siamo tutti un po' primitivi. Come sì. Cantano infatti i Chapter 11, ascolta. Esatto. Io sono un uomo primitivo. Più che campare, sopravvivo. Bruco di qua, caccio di là, ditemi che vita è questa qua. Per essere un uomo primitivo, sono intelligente e riflessivo. E ho un progetto che non mi par male, fare una riforma elettorale. La mia donna è un'australopiteca, ma più che una donna è una ciofeca. Come l'ho trovata non lo so, so che prima o poi divorzierò. Appena inventano il divorzio, si intende. Vabbè, lasciamo il primitivo ai suoi dispiaceri familiari, ma era per dire che come cantano i Chapter 11, che poi siamo sempre noi, peraltro. Esatto. Quindi ce la cantiamo e ce la suoniamo, si può anche si dire. Si sentiva il basso, che quello che suona voi. Si sentiva solo quello, praticamente, c'era solo quello strumento. Quello, lì. La tua voce, il hu, che è quello, anche quello è. Che quello lì si sentiva molto la voce di Stefano, esatto. Invece. Ci fermiamo invece qui. Ricordatevi la nostra email, la nostra casella di posta elettronica, serpentecorallo@radio24.it, e da Mauro Meazza, da Marco Loconte, Stefano Elli, una buona giornata e continuate a seguirci sempre qui su Radio 24. Ciao. Ma quanto sei bello, serpente corallo.